Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentrovati da Mirko Cavallini in studio di Dai Cineregia, nuovo appuntamento con il mondo della scuola. Ritroviamo il responsabile della commissione CET per la scuola, l'educazione e l'università, Don Edmondo Lanciarotta, bentornato. Salute a tutti voi, grazie della vostra accoglienza. Dunque, parliamo proprio della commissione, l'abbiamo sempre citata, è il nostro punto di riferimento, anche tramite te appunto per realizzare questa trasmissione, però è bene anche parlare insomma dell'attività che svolgete a livello di regione ecclesiastica triveneta. E facciamo un passo indietro di alcune settimane, un evento che avevamo anche raccontato in diretta a Padova, la terza conferenza sulla scuola all'inizio di novembre. Sì, questa è la terza conferenza, appuntamento importante per continuare il cammino intrapreso per porre all'opinione pubblica, alle comunità cristiane e alle parti politiche, ecco, locali, l'importanza della scuola, dell'educazione. E quindi dopo una prima che è stata fatta nel 2009, la seconda nel 2011, questa aveva per titolo, per tema appunto, la scuola paritaria è un bene? All'interno della scuola è un bene, quindi abbiamo cercato di vedere se la società tutta riconosce come bene comune, bene proprio, e quindi perché svolge un servizio pubblico e quindi un servizio a favore delle giovani generazioni, la scuola, e all'interno di essa, di tutto il sistema della scuola, la specificità della parità che concorre alla costituzione anche della scuola autonomia. Quindi i due capitoli, autonomia e parità, che costituiscono, tante volte ce lo siamo detti, i pilastri del sistema della scuola, è ancora bene, è riconosciuto un bene, guardando a partire anche dalla nostra specificità veneta. Certo, la scuola pubblica tutta, perché ricordiamo che c'è la famosa legge sulla parità del 2000 appunto, che prevede un sistema scolastico unico all'interno del quale ci sono scuole gestite dallo Stato e scuole gestite da altre realtà. La maggior parte sono di ispirazione cattolica, ma non solo. Esattamente, non solo. E quindi allora questo è importante, è far capire che questo è un bene per tutti, non solamente per qualcuno, non è un privilegio per alcuni. E quindi allora la Commissione ha tentato e continua a tentare, a cercare appunto tutte le occasioni propizie per far sprigionare nell'opinione pubblica l'importanza di questo, a partire anche da un patrimonio storico, da un patrimonio pedagogico, da un patrimonio metodologico, da un patrimonio scolastico, da un patrimonio delle nostre scuole capillarmente presenti nel nostro territorio e che attraverso il principio della sussidiarietà, ecco, promuove di fatto il bene delle giovani generazioni. Noi non vogliamo che questo sia smantellato per problemi prettamente di carattere economico, ma che sia invece aiutato e sostenuto per promuovere il bene comune. La specificità veneta, dicevamo, no? Che è anche storica, bisogna arrivare anche alla fine dell'Ottocento, lì dove in Veneto magari lo Stato, i comuni, le prefetture non arrivavano ancora con l'apertura di scuole, ci pensavano le comunità cristiane. Appunto, e questo è il punto fondamentale, perché poi si è fatta la gran confusione di identificare come pubblico ciò che è dello Stato. E invece con la riforma del titolo quinto della Costituzione si è maggiormente evidenziato un bene già presente nel nostro Veneto, che è quello della sussidiarietà, e quindi riconoscere che la Repubblica italiana è costituita da una molteplicità, da una varietà di soggetti. I soggetti, allora, il comune, il soggetto è la provincia, il soggetto è la regione, il soggetto è lo Stato. Tutti a vario titolo concorrono, e con il principio di sussidiarietà, dove non arriva il primo, il secondo il sostiene e interviene. Bene, a livello scolastico noi abbiamo la società, sostenuta anche dalle comunità cristiane, che si sono fatti carico del problema educativo e che hanno appunto costituito scuole, le quali svolgono un servizio. Bene, questo non deve assolutamente essere fagocitato da una mentalità puramente statalista, ma deve essere la res pubblica che attraverso i propri organismi sostiene e alimenta, anche con un abbattimento di costi, anche con una maggiore partecipazione, anche con un coinvolgimento della comunità. Ed è anche questo il significato della giornata che promuoviamo da 5 anni, che noi chiamiamo giornata della scuola della comunità. Ecco, una giornata che si svolse appunto a novembre, a poche settimane, un paio di settimane dopo quella terza conferenza sulla scuola. Una giornata per la quale gli stessi vescovi scrivono alle comunità, quindi la sentono proprio anche come realtà pastorale oltre che comunitaria. Esattamente, e sulla spinta anche del servizio, del dialogo Chiesa-Mondo, ecco, riconoscono che si dialoga con il mondo anche attraverso il mondo della scuola, e riscoprire che la scuola, come si diceva prima, è un bene di tutti ed è scuola della comunità, ecco, questa giornata che attraverso il messaggio anche dei vescovi, attraverso la partecipazione ai mezzi di comunicazione, attraverso, ecco, la preghiera durante la Santa Messa Domenicale, attraverso così un sussidio che viene proposto dalla Commissione, diffuso come strumento per la sensibilizzazione e la discussione, un tentativo appunto di continuare questa azione, fare in modo che la scuola, tutta la scuola, sia percepita come una comunità educativa. E allora la comunità cristiana, la famiglia, le altre realtà educative si pongano in dialogo con questa istituzione scolastica, istituzione educativa, affinché diventi veramente una comunità capace di educare in dialogo con tutte quante le altre comunità, per superare o per vincere o per dare un contributo a quella che viene chiamata la emergenza educativa. Grazie Don Edmondo, breve pausa, poi torniamo insieme per capire l'attività della Commissione Scuola Educazione, non solo in Veneto ma anche nel resto del Nord Italia. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti. Cambierebbe tutto quanto all'improvviso se tu fossi qui con me, perché dentro la mia vita c'è quel vuoto che hai lasciato e che nessuno può colmare tranne te. Tu che ne sai, che sto ancora a pensarti da solo. Tu che ne sai, e se cade una stella dal cielo la dedico a noi, che respiro ricordi più belli in un dolce replay. Ma diventa più grigio del fumo quell'arcobaleno. Non c'è sale nell'acqua di mare, non riscaldano i raggi del sole lontano da te. Avrai già raccontato la storia e parla di noi. Ce l'ha ancora nascosto il segreto più bello che hai. Io speravo che non arrivasse nemmeno Natale. Passerà, per adesso fa male, perché ho perso la cosa più bella da stringere a me. Sempre fermo dietro questa mia finestra, piove ancora o sono lacrime. Vorrei uscire dalla casa ma i ricordi non mi fanno ancora muovere. Il tuo viso non va via, rimane qui sempre davanti agli occhi miei. Se sapessi che ogni tanto ti ritorno nella mente, crescerebbe la speranza dentro me. Tu che ne sai, che sto ancora a pensarti da solo. Tu che ne sai, giuro sempre che è l'ultima volta che parlo di noi. Stringo tutta la storia nei pugni, che male alle mani. Tra un minuto sarà già domani, ma domani sarà tutto uguale, lontano da te. Dove sarai? Avrai già raccontato la storia che parla di noi. Ce l'ha ancora nascosto il segreto più bello che hai. Io speravo che non arrivasse nemmeno una. Stringere a me. Solamente chi non t'ha incontrato può amare la vita. Se la storia è finita, a che serve la vita per me? Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Prosegue il nostro appuntamento di questa settimana con il mondo della scuola insieme a Don Edmondo Lanciarotta, che è responsabile della Commissione Scuola, Educazione e Università per la Conferenza Episcopale del Triveneto, che comprende il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige, ma c'è evidentemente un dialogo aperto anche con il resto del territorio. Ad esempio, Don Edmondo, allarghiamo lo sguardo al Nord Italia. Voi dialogate evidentemente anche con Lombardia, Piemonte, sì. Emilia Romagna. Sì, perché praticamente la Costituzione, la situazione delle regioni del nord trova delle similitudini per quanto attiene sia alla formazione professionale sia anche alla scuola paritaria dell'infanzia, in Lombardia in particolare, in Piemonte molto più che non nel centro Italia e nel sud Italia. Allora, sulla spinta anche del vescovo, il vicepresidente della conferenza episcopale, Monsignor Nosiglia, che prima era a Vicenza, che adesso è a Torino, che è vicepresidente appunto dei vescovi del nord Italia, ha promosso un incontro con i responsabili, meglio omologhi, delle regioni del nord Italia, ancora nel 2011, per vedere di poter insieme elaborare anche una strategia comune, una strategia sia anche pastorale, per fare in modo che l'azione per il bene della scuola si estenda e non sia localizzata solamente ad una regione, ma possa essere estesa a tutto a livello territoriale. Lì abbiamo iniziato un percorso di sensibilizzazione, di riflessione, di analisi, e possiamo dire anche sulla spinta di quanto abbiamo fatto noi nel Triveneto, e sono stati invitati anche le altre regioni a fare conferenze simili alle nostre, a creare un comitato come è stato costruito nel nostro nel nord, nel Triveneto, e quindi si è estesa questa azione. Questa azione poi si è concentrata in un documento che il 15 di novembre scorso, del 2012, abbiamo così elaborato, distribuito al presidente della Conferenza Episcopale Nazionale, Monsignor Bagnasco, e al segretario Monsignor Crociata, che vi ricordate è venuto anche a presiedere la seconda conferenza qui da noi a Catron, e a tutti i presidenti dei vescovi delle conferenze episcopali del nord Italia, un documento per una scuola della società civile. Uno strumento di lavoro. Qual è l'obiettivo di questo strumento di lavoro che è stato distribuito appunto il 15 novembre? Offrire un strumento, un documento aperto sul quale le aggregazioni del mondo cattolico, sia delle scuole cattoliche, sia delle aggregazioni cattoliche impegnate nel mondo della scuola, possono trovare una convergenza, una progettualità, una occasione per unificare, uniformare, coinvolgere tutte le azioni per contribuire al rinnovamento del processo del sistema della scuola. La scuola oggi è in grande riforma, no? per motivi anche economici viene penalizzata. Ecco, purtroppo constatiamo anche una contrapposizione delle posizioni dei vari schieramenti politici. Ecco, noi abbiamo così cercato con questo documento di porre alcuni capitoli, ecco, su cui è necessario porre la riflessione. Per esempio l'autogoverno della scuola, il problema della valutazione, il problema della selezione e della gestione del personale, il problema del finanziamento delle scuole, ecco, come non come un documento chiuso, ma un documento aperto. Su questo documento poi abbiamo visto che sia le conferenze, la Commissione della Lombardia, sia la Commissione del Triveneto, sia quello del Piemonte, sia quello anche della Liguria, ecco, stanno lavorando e in questi mesi hanno lavorato per dare il proprio contributo su questo documento, rispetto che ha l'obiettivo di trovare una convergenza o di cercare una convergenza di tutto il mondo cattolico su il sistema scuola, sistema formazione italiano. Per avere anche innanzitutto una coscienza comune, evidentemente, e il fatto che il cardinale Bagnasco sia stato destinatario di questo documento è importante, perché lui stesso poi, quando parla Bagnasco, qualcosa succede. Perché il nostro obiettivo è così, capita che alcune regioni non abbiano una, diciamo, sensibilità come la nostra. Ci possono essere delle regioni in cui non c'è una urgenza come la nostra o il nostro del nord sulla formazione professionale. Ecco, allora può accadere che questa sensibilità, ecco, sia un po' dimenticata. Allora, questo per fare in modo che il problema non sia un problema puramente localizzato o locale e quindi relegato alla regione, ma sia invece una questione che abbia attinenze a livello nazionale e a livello anche generale. Sempre restando nel panorama Nord Italia, il mese scorso, il 10 gennaio, a Milano, voi stessi della CET del Triveneto avete promosso un incontro. Appunto, sì. Perché riflettendo su questo documento di cui prima, che prima avevamo citato, ecco, e di fronte anche alle prossime scadenze elettorali, ecco, si ipotizzava di fare una riflessione, ecco, d'accordo anche con i nostri vescovi, di presentare ai possibili o i candidati delle prossime elezioni a livello locale questo strumento di lavoro, comunque dialogare con loro per vedere come è possibile che la questione scuola possa essere tenuta presente. È venuto fuori questa riflessione, ma se facciamo un discorso locale, regionale, non ha ricadute a livello nazionale. Proviamo a vedere se è possibile, ecco, creare un evento a livello del Nord Italia, sulla spinta appunto di quando dicevano i nostri vescovi e in particolare in Campesino Nosiglia, creare un momento nel nord in cui ci sia una maggiore forza, maggiore consapevolezza. Allora, le aggregazioni delle scuole cattoliche del Triveneto hanno invitato le altre aggregazioni delle scuole cattoliche del Nord Italia per vedere se era possibile trovare una riflessione o un momento di incontro. Abbiamo ipotizzato e proposto come data il 10 di gennaio. Sono stati coinvolti anche i responsabili del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica, sono stati informati i nostri vescovi, anche la presidenza della CEI, sono stati informati poi anche i presidenti nazionali delle aggregazioni FIDA, IFISM, AGESC, eccetera. Tutti hanno trovato questa proposta interessante e quindi ci siamo trovati tutti il 10 di gennaio scorso per discutere insieme su questa questione. Ed è stato interessante perché con l'apporto anche di tutte queste persone autorevoli, insieme abbiamo fatto una mattinata di lavoro. Questa mattinata di lavoro ha prodotto un documento e delle suggerimenti che poi sono stati presi per vedere come poter anche proseguire questo tipo di lavoro. E sui contenuti di questo documento entreremo tra pochissimo. Dal mondo della scuola. Thank you. is all you gotta be. Dream dreams no one else can see. Sometimes you wanna run away, but you never know what might be coming round your way. Yeah, yeah, yeah. So on a day like today, the whole world could change. The sun's gonna shine, shine through the rain. On a day like today, you never wanna see the sun go down. You never wanna see the sun go down. Somewhere there's a place for you. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola, stiamo parlando dell'attività degli incontri della Commissione Scuola della Conferenza Episcopale Triveneta, ma anche abbiamo sentito poco fa con Don Edmondo Lanciarotta anche con il resto del Nord Italia. Tra l'altro, geograficamente collocando i vescovi, il patriarca Scola è cardinale a Milano ed era in Veneto, Nosiglia era a Vicenza, conosce il Veneto, ora in Piemonte, dalla Liguria Moraglia è arrivato a Venezia, insomma potrebbero esserci degli elementi positivi. Beh, questo è interessante perché con questi cardinali il problema scuola oggi è molto più facile, molto più sentito, e quindi c'è stata una maggiore facilità. Resta il problema a livello di base, resta il problema a livello anche politico, e per far sentire questa non solamente, come dicevamo prima, una questione del Nord Italia, che possa essere poi, abbiamo anche politicamente delle resistenze, perché noi possiamo essere etichettati di un certo colore politico, certo. Uh-huh. E nel dialogo tra la conferenza Stato-Regioni, ecco, proprio per questi motivi rischiamo di non essere sufficientemente anche valutati, e non vorremmo che questi handicap o queste difficoltà fossero anche a livello ecclesiale. Ecco. Speriamo di ecco. No. Ecco, questo invece non accade. Allora, nell'incontro che abbiamo fatto lo scorso 10 gennaio a Milano, di fronte appunto alle prossime scadenze elettorali nazionali, per l'efficacia di intercettare politicamente la questione, tenendo conto anche delle varie modalità di voto, che ancora non c'è stata la riforma del voto, ecco, il comitato del Triveneto aveva promosso questo incontro per coinvolgere anche le presidenze regionali delle altre aggregazioni delle scuole cattoliche, su invito anche dei nostri vescovi, e per l'appunto Monsignor Nosiglia ci sollecitava a fare questo incontro e ci aveva anche anticipato che la presidenza nazionale della CEI avrebbe nell'anno entrante, appunto in questo anno 2013, ecco, ipotizzato una nuova ripresa di una certa sensibilità per il mondo della scuola in programma anche verso il 2014. Quindi sulla scia di questo, e diceva producete pure anche, ecco, delle riflessioni e poi ce le consegnate in maniera tale che possono diventare anche un contributo. Cosa che voi avete fatto. E abbiamo appunto elaborato un documento che ha per titolo Per una scuola della società civile attraverso l'autonomia e la parità. Questo documento diventa ufficiale, è un documento aperto affinché altre aggregazioni anche del mondo cattolico possono dare il proprio contributo. È un documento con il quale le aggregazioni andranno o sono andate, vanno in questi giorni a dialogare con i candidati alla presidenza del governo e anche al Parlamento, Parlamento, eccetera, con le modalità libere, ogni aggregazione valuterà, ma importante è che le varie aggregazioni vanno e non parlano a titolo personale, ma parlano a titolo della collettività, parlano a titolo di tutto il Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica, parlano a titolo del Comitato, parlano a titolo di tutto il mondo anche della scuola cattolica, scuola paritaria, per dare un contributo, e questo è molto importante. Ecco, questo documento è già leggibile perché è piuttosto lungo sul nostro sito bluradioveneto.it. Vorrei che ne mettessi in evidenza proprio gli aspetti principali. Gli aspetti principali sono il ribadire che ogni riforma della scuola non può non tener conto dell'autonomia e della parità. Secondo punto fondamentale è ribadire il principio della sussidiarietà, il principio del pluralismo delle istituzioni scolastiche e il principio della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e delle associazioni. E poi, sotto questo aspetto qui, l'importanza che ha la scuola e la formazione professionale all'interno del sistema educativo di istruzione e di formazione, e fare in modo che il bene che nelle regioni dove questo accade non debba assolutamente essere smantellato cadendo in forme di statalismo o in forme di centralismo burocratico che paralizza invece tutta la vivacità e l'autonomia e la parità e la sussidiarietà. BluRadioVeneto.it, c'è il testo integrale, così lo leggete. Nei prossimi giorni, giovedì 14 febbraio, avete il prossimo incontro. Sì, in questo prossimo incontro a livello però solamente del Triveneto, noi allora analizzeremo questo documento, verificheremo le iniziative che sono state avviate del dialogo per e con i candidati, e l'esito di questi incontri che stanno facendo in questi mesi, in queste settimane nel nostro territorio, accoglieremo anche gli altri contributi da parte delle altre aggregazioni del mondo cattolico in maniera tale che questo documento possa essere maggiormente integrato e le varie riflessioni poi convergeranno tutte le daremo, le offriremo ai nostri vescovi, in particolare l'Ufficio Nazionale della Conferenza Episcopale della CEI, in preparazione di quella grande iniziativa o di quella sensibilità che già a conclusione dello scorso Consiglio Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana è stato detto che ci sarà una particolare attenzione da parte della Chiesa a tutto il mondo della scuola, e questo di cui sono molto contento, perché possiamo dire di aver anche noi contribuito affinché questo possa avvenire. Un passo avanti e torneremo a parlarne a tempo debito. Intanto grazie a Don Edmondo, a tutta la commissione che sta lavorando per questo settore. Appuntamento con il mondo della scuola fra 7 giorni. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.